ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su aruba.it. Credimi, incassare subito fino al 99% delle tue fatture senza vincoli e burocrazia si può, anche prosoluto e senza notifica. Vai subito su credimi.com. Messaggio promozionale, fogli informativi su credimi.com. Tutti a scuola! Con questo spirito rock anche, Tutti a scuola con questo spirito rock. Maria Piera Ceci che balla sui tavoli. No, io non ballo, io sono seria, al contrario. Vabbè, di adesso te. Perché chi balla non è serio. Adesso, cari ascoltatori, Maria Piera Ceci ha stabilito che chi balla, no, cari ballerini. Beh, di fronte a una telecamera, sul tavolo, in radio. Ci hai tranciato tutto. Va bene, va bene, parliamo di scuola, come ogni lunedì, nello specifico con Maria Piera Ceci. Allora, visto che oggi ho fatto già sentire un po' di Conte, c'è un altro intervento del Premier Conte, che io ho definito Ercolino sempre in piedi, perché non sapeva di Tridico, non sapeva di questo, forse il reddito di cittadinanza che ha fatto lui e il suo governo adesso però non va bene, è sempre in piedi. Tu giocavi con Ercolino sempre in piedi? Sei il pupazzo, quello che stava sempre in piedi? No. No, no, vabbè, una infanzia triste, non balla, non giocava con Ercolino sempre in piedi. Devo ammettere che non ce l'ho neanche presente, sto cercando nella mia memoria, ma niente. Fai su Google immagini, sì. Ercolino. Prima cosa che farò scendo dallo studio. Comunque Conte ha detto una frase che è stata anche un po' dibattuta al Festival dell'Economia sui supplenti. Francamente in questo contesto, con tutti gli investimenti che abbiamo fatto, chiedere di avere tutti i supplenti dal 14 settembre o 24 settembre a seconda dell'inizio dell'anno scorso significa vivere nel mondo delle fiabe. Vivere nel mondo delle fiabe. Ci si rassegna. Io sento in questa classe politica una sorta di rassegnazione, perché poi tu non l'hai fatto sentire tutto, ma Conte dice anche: quando io ero al liceo, sì, è vero, mi arrivavano i professori a dicembre, a gennaio. Come dire, sottotitolo: sono anche diventato comunque presidente del consiglio, dunque ce la facciamo tutti. Mi sembra davvero una frase che mostra tutta la rassegnazione della nostra classe politica ad una scuola che sta avendo qualche piccola difficoltà. Però, Piera, notizia di oggi, non perdiamo tempo perché notizia di oggi davvero importante è che finalmente è arrivata la data del primo dei concorsi. La data, come anticipato oggi dal Sole 24 Ore, è quella del 22 ottobre, quindi il 22 ottobre ci sarà inizia, perché poi durerà un mesetto. Ecco, ma chi partecipa? Perché partecipano i precari con già 36 mesi di insegnamento, per i quali è stata decisa una sorta di, diciamo, corsia preferenziale. Ovviamente è un concorso, questi entreranno in ruolo l'anno prossimo, perché entreranno esatto, quest'anno non cambia niente, ci teniamo supplenti, ammesso, cioè già avere supplente comunque è un lusso. E questi saliranno in cattedra a settembre, ma con effetto retroattivo, cioè il contratto gli parte comunque dal primo di settembre 2020. È il primo dei tre concorsi, gli altri due chissà, quindi questi sono 32.000, gli altri ancora le date si vedrà. Però Piera, ne parlavamo venerdì, tu dicevi tu fai parte degli ottimisti. Maria Piera Ceci fa parte degli ottimisti, sì, che dicono: ma la scuola, vedi, con la macchia di leopardo dei problemi, ma sta andando avanti. Io sono uno di quelli che dico: con queste regole tra un mese saranno più o meno quasi tutti a casa o tanti a casa. Allora Ale, sono passate però le due settimane, sì, quelle fatidiche, no? Si diceva: vediamo fra due settimane cosa succede, ma adesso arrivano le tossi, i raffreddori, sì, anche perché fa un freddo cane. Dai, qualche classe sta chiudendo, qualche scuola sta chiudendo, però insomma, dai, in qualche modo si sta facendo scuola, Se invece vi ritrovate a casa con la didattica a distanza, e qui veniamo a presentare l'ospite che abbiamo chiamato, sappiate che la linea del promossi tutti è un po' la linea forse vera, efficace. Sì, perché l'anno scorso si era deciso che comunque anche con qualche insufficienza si sarebbe stati ammessi all'anno successivo, visto insomma l'anno complicato che è. A meno che non ci fossero state delle gravissime carenze già prima del lockdown. È successo per esempio a un ragazzo di prima media bocciato per non avere partecipato evidentemente attivamente alla didattica a distanza secondo la scuola, ma difeso no, dal TAR del Piemonte al TAR del Piemonte dall'avvocato Paolo Botasso, che è con noi. Avvocato, buongiorno. Buongiorno. Allora, lei ha vinto il ricorso al TAR, non so se pende al Consiglio di Stato un qualche tipo di ricorso. No, non pende. Al momento no, ringraziando no, spero di no. Cioè, ecco, questo ragazzo è stato bocciato in prima media. Racconti un po', che è stato bocciato perché? Che cosa faceva questo alunno? Non partecipava alla didattica a distanza? Ma non è neanche così vero, nel senso ha partecipato probabilmente in maniera non così assidua, però durante la didattica a distanza comunque ha ricevuto delle valutazioni, aveva i voti, addirittura poi dopo l'accesso agli atti abbiamo verificato che il consiglio di classe aveva valutato che durante la didattica a distanza, pur partecipando, non era stato così attivo, però risultava una partecipazione perché peraltro per due materie neanche così poco. Stiamo parlando importanti. Di un ragazzo di prima media, quindi, no? Sì, quindi 11 anni. 11 anni di Saluzzo, ok, perché non l'abbiamo detto. I genitori entrambi fuori casa, quindi entrambi al lavoro tutto il giorno, quindi anche difficoltà di avere controlli. Non credo che avesse poi tutti questi supporti informatici, sicuramente avevano uno smartphone, un tablet, però non una postazione fissa, quindi anche sì, questo è stato un problema, no, Alessandro, di cui abbiamo parlato tantissimo, sì, cioè diciamo, genitori che dovevano comunque per i più piccoli, qui non piccolissimo, però comunque la prima media non sono neanche ecco, tanto avvocato, però se la scuola ha valutato una carenza di attenzione, lei come ha fatto a dimostrare al TAR che non è così? Ci sono due aspetti. C'è un aspetto, quello a cui faceva accenno voi prima, che l'ordinanza ministeriale e poi che si adeguava al decreto prevedeva appunto l'impossibilità di una bocciatura legata soltanto a una valutazione del periodo della didattica a distanza. Quindi era necessario che ci fosse un'impossibilità di valutare, che non ci fossero proprio elementi valutativi e una situazione tale che non consentiva la possibilità di far accedere l'alunno alla classe successiva, anche perché le eventuali carenze nel periodo di didattica a distanza dovevano essere in qualche modo ovviate con i programmi di recupero prima dell'inizio dell'anno scolastico. E anche questi corsi hanno fatto, insomma, hanno avuto qualche difficoltà. Qualche problema, però, ad esempio, nel caso specifico, con il decreto cautelare che abbiamo ottenuto subito già ad agosto, è stato ammesso a questi corsi e la scuola di TAR aveva già imposto alla scuola di predisporre o comunque inserire il ragazzino nei corsi di recupero, e così ha fatto. Cioè, lui dal 1° di settembre ha iniziato a partecipare a questi. Ma lei che idea si è fatto che questo ragazzino facesse fatica a seguire la didattica a distanza perché non aveva voglia e si metteva col telefonino a fare giochini? Oppure, come penso io, non conosco il caso specifico, i ragazzi hanno fatto un po' fatica, no, a riconvertirsi su questa didattica a distanza, perché non è uguale e soprattutto manca la relazione. I ragazzi hanno fatto un po' fatica, io ho tre figli, ho visto che hanno anche fatto la loro fatica con tutti, poi tra l'altro, gli strumenti in casa che non credo che tutte le famiglie magari abbiano, ecco, quindi questo c'è. Beh, sì, l'abbiamo detto, bastava che la didattica uno smartphone, però basta dopodiché, un telefonino. No, quello sì, però dopodiché io mi baso anche sui dati oggettivi di quello che poi è emerso dall'accesso agli atti, anche nel periodo di didattica a distanza, nel caso di questo ragazzino non c'era un'assenza di valutazioni, cioè il consiglio di classe non è che ha detto non l'abbiamo visto, non si è mai collegato, e aveva dei voti, come dicevo prima, era un po' svogliato, del resto, insomma, chiuso un in camera, un appassionato di Fortnite, diciamolo, italiano e storia, aveva dei voti più che positivi, perché mi pare avesse 8 e 7, una cosa del genere, delle altre materie non ha raggiunto la sufficienza, però aveva le valutazioni, le aveva. E qualcuna anche positiva, quindi il discorso che fa il TAR è un discorso secondo me proprio pacifico rispetto anche all'interpretazione della norma, è quello di dire in questo periodo emergenziale non possono essere utilizzati i criteri che si utilizzano normalmente di appunto media matematica rispetto ai voti assegnati. e quindi valutazione negativa nel caso in cui non si raggiunga la sufficienza. No, ma è chiaro, questo è il in punto. In questo periodo l'unico motivo per cui si poteva non ammettere l'alunna alla classe successiva era quello proprio dell'impossibilità di valutazione. Sì, grazie. C'è da dire che grazie avvocato, ai tuoi tempi, ai miei tempi, che poi sono gli stessi, cara Maria Pietra Ceci, io non sentivo di come tanti vecchio avvocati quando parli così Alessandro. No, non vecchio, sentivo vecchio di tanti avvocati che facevano causa, perché ovviamente chiamati erano dalle, altri tempi, però altri tempi, insomma, non c'era il coronavirus, ma comunque di cause ne abbiamo sentite nei confronti delle bocciature anche non legate al coronavirus. E se avesse ragione? Se avesse ragione, beh, il TAR gli ha dato ragione, appunto. No, perché sento, ed è anche fortunato che faccia didattica a distanza, perché come sai ci sono tanti ragazzini in questo momento che vorrebbero fare la didattica a distanza perché in quarantena a casa E posso. La scuola non consente lo. Ma perché? Perché se è una scuola, ad esempio media, in cui in questo momento, come è giusto che sia, non è prevista didattica a distanza, se sì, un ragazzino è a casa, fatti suoi, l'insegnante non può mettersi uno smartphone di fronte alla faccia. Se tutti sono lì tranne uno o due, questi uno o due rimangono. Però rimangono in quarantena magari 20 giorni, 15 minimo, 14 minimo, se non 20, se non un mese, perdono un mese di scuola. Un telefonino su una cattedra, tutto sommato, ci potrebbe stare. No? Sì, diciamo che non è facile. È facile, come dire, trovare soluzioni, ma in realtà non è facile. Sicuramente l'idea del promossi tutti è l'idea che ci ha fatto anche capire l'avvocato, era prevista un po' dal decreto ministeriale. Quindi anche quest'anno, se mai si dovesse finire torno all'inverno, tutti in didattica a distanza, non sarà così. L'ottimista Ceci. Ci risentiamo lunedì prossimo, cara Maria Piera. Un abbraccio. Credimi, incassare subito fino al 99% delle tue fatture senza vincoli e burocrazia si può, anche prosoluto e senza notifica. Vai subito su credimi.com. Messaggio promozionale, fogli informativi su credimi.com.